A Radio Città ti dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, puntuali per una nuova puntata all'interno di questa domenica, ovviamente Easy Pop parte ora dalle 15 alle 16, musica indipendente per menti libere. E se non oggi, quando, visto che ieri si è festeggiato ovviamente il Vinile Day, dove praticamente sono uscite tante cose interessanti, pubblicazioni eccetera, e insomma il vinile ha il suo fascino. E allora oggi 23 aprile 2023, in concomitanza appunto con tanti eventi che si svolgeranno da qui in avanti, puntata numero 16 di Easy Pop. Diamo un'occhiata a che cosa è uscito durante la settimana. Con me a farlo è ovviamente il nostro regista che è sempre presente con noi, ovvero sia il Bolognese Volante. Qui diamo il buongiorno. Buon pomeriggio ormai, Paoletti, buon pomeriggio. Sì, fra un po' saranno il tè delle 4, quindi chiediamo alla redazione di preparare anche il tè, visto che comunque insomma è caldo, ma non è ancora quel caldo, anche se appunto gli esodi hanno cominciato a farsi vedere, vero? Sono iniziati. Bene, allora abbiamo... Chi può esodare? No, beh, quello non mi compete ancora, però insomma forse lei è un esodato, non lo so. No, dico esodare nel senso di andare in vacanza, andare fuori città. Ah, in quel senso, certo, insomma, capito, lei ha preso fischi per fiaschi, lucciole per lanterne, eccetera, esatto. Eccetera. No, allora io non mi dilungo ulteriormente. Rose per spine. Allora direi di iniziare immediatamente con la musica. A proposito, anche qui chiedo aiuto. Allora, Forse Frasca si chiama così il personaggio, così pare che ci presenta questa bella selezione musicale curiosa che si intitola Felpa Bianca. Ascoltiamolo. Ascoltami, lo so che vuoi dormire, ma rischio di impazzire senza dirti che ho sbagliato troppe volte. Ti chiedo scusa solo di notte, e fare sesso non fare pace, però Dio quanto ci piace. E chissà se ancora le mie foto nella stanza, e chissà se fai ancora il caffè mentre sei scalza, se studi, ridi e piangi, se leggi i miei messaggi, se l'inchiostro sulla pelle lo copri con la mia felpa bianca, con la tua felpa bianca. Se quella felpa larga mi manca già, ti giuro, lo so che non dovrei parlarti, che ora c'è quella faccia da scemo, ma come fate a baciarmi? Ma come fai a non ridere quando lo guardi negli occhi? Come rido io davanti agli specchi, maledetti specchi. E chissà se ancora le mie foto nella stanza, e chissà se fai ancora il caffè mentre sei scalza, se fumi, ridi e piangi, se leggi i miei messaggi, se l'inchiostro sulla pelle lo copri con la mia felpa bianca. E se ti chiamo lo so che finirò nei guai, ma nel tuo nuovo letto io non ci sono stato mai. E chissà se ancora le mie chissà chi è questo forse Frasca e la sua felpa bianca. Ce lo racconta Paoletti. Arriva da Campobasso questo giovanissimo ragazzo, giunto al suo secondo singolo, e quindi se sono rose fioriranno, come diceva non lei. Cominciamo con le rose. No, favore, ma no, non iniziamo. Comunque arrivato. Arrivato a Roma per motivi di studio, la capitale praticamente ha generato in lui un forte senso di mettersi in gioco per far sentire anche il suo tipo di musica. Ha partecipato nel 2020 a praticamente l'Open Mic Contest del Festival Spaghettiland in Roma ed è giunto verso le semifinali, perché si è messo comunque alla luce e ha creato questi nuovi singoli grazie a un manager, insomma uno staff che lo ha praticamente lo ha notato, e da qui insomma è voluto questa copiatura, no, del sound un po' ricordava per esempio Zero Saluto, vero? Se li ricorda lei? No. Come no? Lo sa che io sono una mente bianca. Il Zero Assoluto, non si ricorda? Sì, no. Che erano. Vabbè, comunque, Francesco Zero Scritto. Zero Assoluto per me vale nel senso che non so Zero Assoluto. Proprio zero, e quindi praticamente ci ha portato in quelle vibrazioni del primo indie musicale dei Zero Assoluto, e non solo, insomma, di quella tecnologia, quella musica tecnica che si ascoltava, insomma, in quegli anni. E devo dire che ha avuto ragione, perché questo singolo acchiappa molto. E infatti ricorda molto appunto il Zero Assoluto. Bene, a questo punto direi di andare alla prossima selezione musicale. Ce lo presenta Panorama e questo è Zero. Ah, ancora Zero? Zero. Ti aspetto, solito posto freddo, solo con lo stipendio. Potrebbe andare meglio, dico sicuro, certo. Fortuna che c'è il rap, fortuna che ci sei. Sono accerchiato, guarda lì, c'è chi mi sparano. Banchi di barracuda, bramano carne cruda. Ora vedo il segno sulla fronte, se non sudo pare una tortura. Non mi capisci, scusa, ora che non vedo più ciò che ci accomuna. Tu chi sei? Sei la vittima, l'ispirazione. Amica ciclica, maledizione. Perché mi sento solo in mezzo a tutte ste persone. Ho un presentimento pessimo stasera. Ogni volta sbaglio il lessico in maniera. Tu mi chiedi cosa pensi mentre scrivo. Tutti i sentimenti in prestito e dormire male. Tu mi hai fatto quasi perdere il respiro. Tu mi hai fatto quasi perdere il bambino. Ma lo sai che odio perdere. Finiamo sempre poi per farci male. Mi chiederò ogni volta, qua nessuno ascolta, come posso urlare, in fondo cosa conta. Fai la finta tonta, vuoi la pappa pronta, senza faticare, amare tutti i tuoi difetti come fosse facile, fino a odiarne solo uno e poi scoppiare in lacrime, mentre affrontiamo i conflitti chiusi nelle camere, per risolverli da soli Will Smith come in sette anime. Yeah, spengo l'ennesima nel portacenere. L'ansia che mi mangia, non c'è più niente da chiedere. Se non solo calma, ma ho solo calma da cedere. Perché non so chi sei, quindi tu chi sei? Sei la realtà o sei allucinazione? Sei la metà o sei la mia ambizione? Ho presentimento pessimo stasera. Ogni volta sbaglio il lessico in maniera. Tu mi chiedi cosa pensi mentre scrivo. Tutti i sentimenti in prestito e dormire male. Tu mi hai fatto quasi perdere il respiro. Tu mi hai fatto quasi perdere il bambino. Ma lo sai che odio perdere. Finiamo sempre poi per farci male. La mia vita una roulette, 2000 sul nero. Perder tutto per capire soltanto chi ero. Capisci tra martello e incudine solo davvero. Quando capisci che valiamo che meno di zero. Canterò tutta la notte. Panorama e la sua Zero in materia di Zero Assoluto, Zero eccetera eccetera, sì, si chiama che Zero. Riecheggia. Riecheggia quest'oggi. Oggi la parola è Zero. Zero, va bene. Anche se per gli altri o per noi stessi valiamo zero, vale sempre la pena rischiare e quindi far valere che insomma non valiamo zero. A dirci questo concetto è Simone Caldarelli, che in realtà si fa chiamare Panorama. È scritto questo pezzo insieme a Vittorio Valenti, praticamente è giunto a questo nuovo singolo e quindi vediamo che cosa succederà a questo ragazzo che insomma abita in zona Bergamo, se non sbaglio, e da lì insomma inizia a muovere i primi passi nella musica, e devo dire che insomma ci ha ben impressionato. Quindi da Panorama noi passiamo a questo punto a un'altra selezione musicale, lo annunci lei perché qui insomma io potrei sbagliare. Beh, non sapevo. No, leggere. Si chiama così? Vado? Certo. Vado io allora. Soli su Marte. Hai capito qualcosa? Soli su Marte. Sole su Marte. No, e chiedevo proprio soli, se qualcuno. Al contrario di Compagnia su Marte, soli su Marte. Sì, sembrava Marte, vabbè, soli su Marte, attaccato, tutto attaccato praticamente, esatto. Ci presenta Tutto bene, ascoltiamo il pezzo. Mi fido poco con certe persone, specie se ridono sempre. Non credo che sia un buon segno, certe volte mi sento un extraterrestre. Ed io ci provo, oh ci provo, ti giuro che ci provo a stare ad ascoltare. Digrigno i denti poi così forte, puoi finirla qui, sento l'ansia che sale. Mi chiedi come va, fin qui tutto bene, mi chiedi come va, fin qui tutto bene, ti sembra che sia ironico ma che ti pare, mi chiedi come sto, come sto, non ti conviene. Distaccato lo sono da sempre, ora particolarmente, resto impegnato 24/7 per non provare più niente. Sono lontano ormai anni luce dai castelli che facevo dentro la testa. E ho nelle tasche un po' di pensieri e so che peseranno tutto ciò che mi resta. Mi chiedi come va, fin qui tutto bene, mi chiedi come va, fin qui tutto bene. Ti sembra che sia ironico ma che ti pare, mi chiedi come sto, come sto, non ti conviene. Soli su Marte, tutto bene, un brano ballabile, Paoletti. Ricorda qualcosa nell'aria. Non cominci a farmi questi indovinelli. Va bene, va bene. Ho detto zero assoluto prima. Va bene, zero. Io con lei non posso parlare di musica. Tutto bene? Va bene, lasciamo perdere. Poi sono i miei echi che sento nell'aria. Lo sa che qui non plus ultra della conoscenza, lei non sono io. Va bene, va bene. Allora, tutto bene, segna la ripartenza del progetto, appunto, che abbiamo ora ascoltato, Soli su Marte, praticamente anticipa l'uscita del primo disco che conterrà anche il brano legato alla serie TV Shake, prodotta dalla Lucky Red. Pensate, Soli su Marte è un progetto musicale composto da Daris Bozzoni e Nicolas Pelleri, che conquistano l'inserimento nelle più prestigiose playlist editoriali di Spotify Indie Italia e nella New Music Friday scuole indie, compresa poi la copertina del disco e lo speciale classifica Viral 50, dove praticamente hanno spopolato soprattutto fra i ragazzini che hanno il cellulare. Così insomma la loro musica elettronica, il loro sound elettronico pop con sfumature urban hanno conquistato non solo appunto la serie TV firmata Rai, ma anche insomma tutti i giovani che smanettano sui social, ma quelli più alternativi e quelli più semplici come Spotify, no? E quindi quando lei dice Spotify mi sembra di sputare nel microfono. Infatti così vedo gli sputacchini da qui io. Ma chissà se Spotify se questa cosa Spotify giustamente no, perché abbiamo anche dei professori d'inglese che poi ci riprendono in effetti e poi ci scrivono lei. Mi riprendono me e sono impietosi, devo dire la verità. Comunque mea culpa Spotify mea culpa mia grandissima colpa. Bene, a questo punto voltiamo pagina e da Soli su Marte, scritto proprio tutto attaccato, Soli su Marte con tutto bene, passiamo a Eterea Sex Appeal. Qua allora Eterea Sex Appeal, anche questo un brano ballabile alle ultime molto. Due note, ma è finito molto Eterea finisce così con queste ultime due note piazzate così. Certo, ah, così la spiazza Eterea, giovane artista romana, lei è di Anzio, attualmente al lavoro con il suo team per la realizzazione di un album, insomma, quello che si diceva, insomma, il concept album. Eterea, dopo il primo successo con Giura in collaborazione con il noto rapper Nesli, dopo le sue date in America insieme a Fausto Leali e a Pupo, ha lavorato anche con Clementino Diodato, Anna Tantangelo ed Elettra Lambordini, meglio di così, insomma. E poi addirittura l'hanno vista la festeggiare il Capodanno 2022-2023 a Pontremoli insieme a Baby K e a Cristina D'Avena. Quindi insomma, che dire, un purpurì di artiste, di ospiti d'eccezione in cui praticamente lei ha lavorato e sta lavorando, conquistandosi insomma il suo posto al sole. Devo dire che è così che si fa la vera gavetta, si gira per i palchi, ci si conosce con le persone, si attivano, ci si confronta, si attivano delle collaborazioni, si interagisce, esattamente. Poi tra l'altro questo singolo è prodotto da BS, da Monteforte, che insomma è già un nome nella musica italiana. 15:18 103:10 di Radio Città Fujiko, siete all'ascolto di Easy Pop, puntata numero 16 di domenica, oggi 23 aprile, un'oretta di musica spensierata indie italiana. Quasi tutta italiana. Poi ogni tanto poi sbaragliamo, sì, andiamo un po' fuori dal seminato, però insomma stiamo a vedere che cosa succede a casa nostra. E poi del resto, dopo siamo nel filone dopo Sanremo, quindi ci sono tante nuove ormai proprio no ci sono tante nuove uscite per l'estate, insomma, che sta arrivando. Vedo oggi un graditissimo sole, quindi insomma ci sta. E poi siamo qui durante i ponti e non ponti, e quindi 33 180 94 94 per i vostri short message. Salutiamo coloro che ci seguono ovviamente via streaming. giusto? Bene, e a questo punto andiamo dopo Eteria con Romeo e Drill. Io non lo so, il titolo del pezzo. Stati diversi, con l'amore nei versi, nelle acque dispersi, ci guardiamo i riflessi. Apro il cuore una fossa, magnitudo una scossa, un errore gigante con la matita rossa. Indicami un posto, pensaci un secondo, non mi dire presto se poi scendi a mezzogiorno. Sai che mi domando, cosa vai cercando? Non mi dire fermo se sto navigando. E non lo so perché, e non lo so perché, e questa vita mi distruggerà, mi distruggerà. E non lo so che c'è, se mi distrugge porto dentro. Io non lo so, oh, oh, se mi fai stare bene la mia fantasia. E che però, oh, oh, mi sento bene solo quando sei mia. E se mi chiami al cellulare tanto non risponderò. E se ti cerco sulle storie ma la tua la salterò. Aprimi il cuore con un passepartout, lasciami sempre nel momento clou. E no, non mi passi, ricordo i tuoi sguardi, e non pensavo ad una fine così, che la vedevo più come il finale di un film. Confondo i tuoi no con i sì, e le tue lacrime con i miei sorrisi. Io non lo so, oh, oh, se mi fai stare bene la mia fantasia. E che però, oh, oh, mi sento bene solo quando sei mia. E se mi chiami al cellulare tanto non risponderò. E se ti cerco sulle storie ma la tua la salterò. Io non lo so, oh, oh, se mi fai stare bene la mia fantasia. E che però, oh, oh, mi sento bene solo quando sei mia. E se mi chiami al cellulare tanto non risponderò. E se ti cerco sulle storie, ma la tua la salterò. A un passo da Sanremo Giovani, praticamente col loro inedito Giorno di Scuola, vengono scelti comunque per partecipare alla finale di Sanremo Giovani, che poi insomma non ha avuto quel successo o insomma il passaggio agli ottavi di finale per poi salire sul palco di Sanremo. Però sono saliti sul palco di Radio 2 Social Club e non solo. A febbraio 2022 Romeo e Drill stanno lavorando in nuovi progetti in cui insomma sono seguiti anche dal produttore Mr. Brooks, che appunto gli dà una mano. Loro sono già popolarissimi fra i giovani, anche perché hanno avuto un grande spran nel 2019, a dicembre 2019, con il brano Chi se ne frega, che è stato veramente insomma un tormentone soprattutto fra i giovani, e quindi sono molto seguiti. Oggi sono in studio con il loro nuovo appunto producer per completare il loro primo album, però insomma, se queste sono le premesse, se sono rose come dico io, fioriranno sicuramente. Complimenti a quindi Romeo e Drill, che poi insomma sono Patrizio Romeo in arte Romeo e Francesco Manfredi in arte Drill, duo romano che insomma hanno iniziato veramente da poco a fare musica e devo dire stanno bruciando le tappe. Complimenti. A questo punto, regia. A questo punto, annunci lei. A questo punto siamo alla sesta proposta quest'oggi con Johnny Scandal e ci propone Male. Male, vedere che sorridi con un'altra persona come fosse normale. Averti di rubrica e non poterti chiamare. Faccio tutte le strade che facevo con te. E sogno tutti i giorni che sei ancora con me. Però mi fa male, però mi fa male. Ti ho visto l'altro giorno mentre camminavi e ti son passato accanto manco mi guardavi. È difficile pensare che prima mi amavi, quando adesso se ci pensi siamo solo estranei. E quanto fa male sentirmi dire da tutti lo devi accettare, che in ogni caso avrei sofferto come un cane. Però mi fa male, Mi hanno detto tutti devi andare avanti lo stesso, ma è inutile che vivi fuori se muori dentro. Sono uscito a fumare solo che adesso la sigaretta qui io con chi la smezzo. Sono troppo nervoso, sono andato allo specchio, gli ho scritto che mi manchi troppo con il rossetto. E ora di te, e ora di noi, mi sono rimaste solo quelle polaroid. Però mi fa male vedere che sorridi con un'altra persona come fosse normale, averti di rubrica e non poterti chiamare. Faccio tutte le strade che facevo con te e sogno tutti i giorni che sei ancora con me. Però mi fa male, però mi fa male, se ti cancello ovunque forse starò meglio, oppure avrò un po' di pazienza e conterò sul tempo. Le lacrime finite manco te lo spiego, ma non ti nego che adesso quando piango me ne frego. Eravamo pezzi di plastica messi assieme con mi lego, ci hanno staccati per farne un disegno vero, un ritratto in bianco e nero che vedo anche se non sei qui davvero, come il repelio. Mi hanno detto tutti devi andare avanti lo stesso, ma è inutile che vivi fuori se muori dentro. Sono uscito a fumare solo che adesso questa sigaretta qui io con chi la smezzo. Sono troppo nervoso, sono andato allo specchio, io ho scritto che mi manchi troppo con il rossetto. E ora di te, e ora di noi, mi sono rimaste solo quelle polaroid. Però mi fa male vedere che sorridi con una... Johnny Scandal, non credo ci sia bisogno di così tanti tanti pripo quo per parlare di questo giovane che appunto si chiama Jonathan Ruggeri, rapper classe 1991, originario di Pisticci in provincia di Matera, come Mango per esempio. Insomma, sono tanti gli artisti a questo punto che stanno del post Mango, quindi lui ha aperto una strada in realtà, però adesso ce ne sono veramente di tanti e validi, soprattutto cantautori da quella terra, e mi compiaccio perché insomma la vera gavetta l'ha fatta veramente soprattutto Mango per portare la musica in Basilicata, quindi complimenti. Ma non siamo qui per parlare di Mango, ma di Johnny Scandal con Male. È il primo singolo estratto dal suo nuovo album. Il ritornello rimane, perché un po' reggaeton, pop, trap, rimane sicuramente in mente. Lui è nato appunto, come dicevo, nel 91 e si è fatto strada soprattutto grazie a YouTube, insomma, e tutto il mondo, diciamo, informatico che nasceva allora. E poi da una piccola etichetta è passato una major, e che dire, che insomma ora non ha bisogno di grandi presentazioni perché è una realtà appunto della musica italiana. Ritorna alla musica con questo singolo e quindi noi l'abbiamo presentato, Johnny Scandal con noi. A questo punto alziamo in piedi. Sì, io non so, insomma, quasi, sono insomma, sì. Perché qui c'è un bellissimo ricordo, fatto, un ricordo di un grande personaggio musicale fatto da suo figlio, in cui praticamente grazie alla tecnologia siamo riusciti a mettere padre e figlio insieme ed è venuto fuori questo bel singolo che ci ha stupito. Devo dire chi è? Getta le tue reti, no. Buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Dille, dille tu signore, dille che tornerà, l'uomo suo difendi dal mare, dai pericoli che troverà. Tanto giovane, mio Dio, ed il nero è un triste colore, la sua pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Pesca, forza, tira pescatore, pesca, non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare quando la sua furia diventa grande, e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Dille, dille tu signore, dille se tornerà col

Nella Bologna mordi e fuggi c'è un luogo diverso, dove trovi socialità, cultura, presentazione di libri, controinformazione, impegno e attenzione ai temi sociali, musica, teatro, poesia, ma anche buona cucina. È il centro sociale e culturale Villa Paradiso, in via Emilia Levante 138, fianco Osteria Vini d'Italia. Aperto dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 20. Per info cerca Centro Sociale e Culturale Villa Paradiso su Facebook. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Seconda parte di Easy Pop, puntata numero 16 di domenica 23 aprile 2023. Siamo qui per parlare di musica indipendente e non solo, insieme a Franco Paoletti che vi parla, e ovviamente il Bolognese Volante che sta puntando il prossimo disco in merito appunto alla seconda parte. Abbiamo un personaggio che si fa chiamare Apollo 13, prende... Com'è? Esma, sì, si fa chiamare Esma, Apollo 13 invece è il suo singolo. Praticamente il tutto prende il via dall'incontro e la penna di Esma, questo cantautore astigiano, con il produttore di musica elettronica Domenico Candela. Ne è venuto fuori questo purpurri che si chiama appunto Apollo 13, pronti per andare sulla Luna. Ascoltiamolo. Come va? Sei ancora a Londra? Io sono qui nella tua assenza, restiamo amici, ma hai messo radici. Con queste lacrime apri un acquapark. La mia barca non affonda, no, trova un'isola e si salva. Coi tuoi vestiti, ricordi sbiaditi, facciamo per creare un buon karma. Sopra il fuoco si balla, è un dolore che incalza, qui la rabbia non passa. Sopra il fuoco si balla. È una chimera, questa storia è la frontiera. Smetto di crederci, siamo noi l'Apollo 13. E il mondo fiera, sono in cerca di atmosfera. E di un sospiro, di un sorriso, un brivido oltre il tuo viso che mi ha deluso. La Polaroid coi fiori in bocca è sempre qui nella mia stanza. Chissà chi sorridi e togli i vestiti, anche sta stronza ti riporterò da me. Dimmi dai, neanche da sbronza, no, la metti in discussione la tua scelta. Senti ma curiosità, per far carriera uccidi la nostra complicità. Nella notte che avanza per creare un buon karma, sopra il fuoco si balla, è un dolore che incalza, qui la rabbia non passa. Sopra il fuoco si balla. Apollo 13, Esma, dunque è un nuovo singolo in attesa dell'album che uscirà a breve, si chiama Indigeno. Ci ascoltiamo appunto Esma, che diciamo è uno scopritore così della musica, anzi lui si fa chiamare Coltiva Autore, perché lui è un autore dei suoi testi e poi si fa accompagnare con musica elettronica e sperimentazione. Devo dire che praticamente ha già cambiato rumore o sound rispetto al precedente singolo che l'aveva così fatto preso come esordio, insomma, per quanto riguarda il suo tracciato, il suo percorso musicale. E a questo punto invece siamo curiosi di ascoltare il suo nuovo album che uscirà a breve, appunto intitolato Indigeno. A questo punto invece Noi parliamo di una cantautrice che si fa chiamare Fosca, alter ego invece di Jessica Foscarina, che praticamente ama la musica di Vasco Rossi, di Elisa e poi anche quella di Frank Sinatra, quindi tutto il jazz, anche il sound di Amy Winehouse. Ne viene fuori che cosa? Che grazie alle sue lezioni di canto si è stata indirizzata alla musica grazie a Moreno del Signore, vocal coach, produttore artistico, nonché anche grande cantante di alcuni gruppi degli anni 2000, insomma gruppi indipendenti. E questo è il suo singolo che insomma piano piano la sta facendo così conoscere al mondo musicale. Fosca, pupilla di David Bonato, che salutiamo, assolutamente. Saluta, salutiamo sia lui che Moreno del Signore, che ben conosciamo. Allora noi ci ascoltiamo questa Non sono roba tua, lei è Fosca. Di leggerezza per volare via. Ho male nelle vene che non mi appartiene, brucia come una bugia. Le briciole del sesso, adrenalina pura, e dopo la paura. Guardi quando inganni, ho solo 20 anni, anche se ci gioco un po'. Ma il cuore era pulito, tu che l'hai capito, io che non so dire no. Non vuoi che mi lamenti, parlo a denti stretti, ma sai qual è la verità? Se tu che abbassi gli occhi, io faccio la mia vita. È tutta un'altra storia, adesso non c'è più partita. Tu devi stare fuori, la gente è come te. Bastardo senza gloria, non ti dice mai chi è. Non sono più bambina, non sono roba tua. Sprecare tempo e giorni, muoiono i miei sogni e io non ci credevo e tu mi compri di parole, sapevi come fare e io non mi vedevo più. Mi manca una carezza, il mondo fa tristezza, un pugno nello stomaco. Tequila, lemon margarita, il ghiaccio tra le dita che si scioglie un po'. Sul fondo leggo un altro mondo, parli non ti vedo e non ti sento più. Tra lacrime e salate, io sono guarita. Se tu abbassi gli occhi, io faccio la mia vita. È tutta un'altra storia, adesso non c'è più partita. Ma che verve proprio, graffiante. La grinta di Fosca, assolutamente. Fosca, una nuova voce che dobbiamo imparare veramente a conoscere, poi da queste frequenze assolutamente sarà sicuramente irradiata in lungo e largo, come si suol dire. Fosca, Non sono roba tua, il singolo che insomma prosegue il suo cammino musicale, devo dire insomma che bisogna così attenzionare, vero, come si suol dire. A questo punto invece parliamo di un cantautore che è di Bologna, anzi è bolognese d'adozione, si chiama Giovanni Usai. E quindi lui inizia la sua carriera musicale a 12 anni cantando e suonando pianoforte, e poi si è approcciato quando si è trasferito a Bologna, quindi nell'adolescenza prosegue i suoi studi di pianoforte incontrando Stefania Martin e Giuseppe Lopizzo, e quest'ultimo è stato insegnante di canto e vocal coach niente proprio di meno che di Gaetano Curreri, di Vasco Rossi, di Ligabue, quindi le premesse ci sono. Nel 2019 ha pubblicato il singolo Tradita e poi nel 2020 ha pubblicato un singolo che ha avuto insomma i suoi consensi. Nel 2020 ha aperto il concerto di Mahmood e poi nel 2022 ha pubblicato il brano All'improvviso, e poi ha partecipato durante l'estate dello stesso anno al contest The Voice of Europe, e poi insomma diverse selezioni musicali per i talent insomma vocali, quindi da X Factor ad altri. Brividi Lividi è il suo nuovo singolo di questo cantautore, appunto Giovanni Usai, e quindi noi ce l'ascoltiamo perché ci siamo incuriositi molto. Brividi Lividi. Thank you. mia porta appena uscita e mi lascerà questa notte che non passerà. Stessa tattica della mia logica, sola melodica, triste e metodica, so che effetto fa la notte che non passerà. Perdonami, lo so, non c'è una via di uscita. Perdonami, di miele lampone questo viso di bambola, cade una lacrima in questa favola. Effetto fa parlare di te a una sconosciuta e cercare un'altra donna per cancellare, ma logica non c'è. C'è un pensiero che corre, un cuore che batte, un guerriero che sbaglia, una luce che abbaglia. Perdonami, lo so, non c'è una via di uscita. Perdonami, di miele lampone questo viso di bambola, cade una lacrima questa favola, il suo guerriero da lei tornerà. E tornerà sentendo quei brividi e contando i suoi lividi, lui si accorgerà che sentirà una mano stringere ed inaspettatamente il suo cuore batterà, sentendo brividi e lividi e inaspettatamente il cuore battere. Beh, ricorda un po' anche lontanamente Rosario Di Bella, insomma questi cantautori molto molto interessanti, forse di nicchia. Una bella voce per Giovanni Usai, ricordatevi il nome, questa è Brividi Lividi. A questo punto invece passiamo a un gruppo che ha alle spalle qualche anno di così di strada, sto parlando dei Painkillers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo Rotto Dentro e poi insomma ve ne parlo tra pochissimo, quindi non andate via ma ascoltiamo Rotto Dentro, Painkillers. Mi guardi negli occhi all'istante, l'ansia mi prende e mi assale, non riesco a capire cosa succede, non lo so dire. Non posso fingere che vada via questa tristezza che poi è solo mia. Sorridi un po', fingi un po', sono finito in un fottuto show. Per tutto questo ci sarà un perché, ma io so soltanto che non ricordo da quanto tempo mi sento sempre più spento. Non posso mentire, qui cosa c'entro? Oh no, sono rotto dentro. Non ricordo da quanto tempo mi sento sempre più spento. Non posso mentire, qui cosa c'entro? Oh no, sono rotto dentro. Mi risveglio, sono ancora qui, le certezze sono come nei film. Potrà mai cambiare, da qui ora non ci so stare. Non ricordo da quanto tempo, mi sento sempre più spento. Non posso mentire, qui cosa c'entro? Oh no, sono rotto dentro. Non ricordo da quanto tempo, mi sento sempre più spento. Non posso mentire, qui cosa c'entro? Oh no, sono rotto dentro. Perché mi sento così sempre? Fanculo, non dovrei sentire più niente. Perché sento così tanto? Ti chiedo solo questo, stammi accanto. Perché mi sento così sempre? A nessuno sembra importare un cazzo. Perché sento così tanto? Non ricordo da quanto tempo. È proprio così, Painkillers, Rotto Dentro, che è poi il singolo estratto dal loro EP uscito da pochissimo e dove all'interno c'è anche, se non sbaglio, Gioventù Bruciata. Bene, che dire, che le sonorità del gruppo hanno radici sì nel punk ma anche nel nella pop, nel pop punk californiano, un po' di urban, insomma, stanno così aggiustando il tiro per quanto riguarda il loro gusto musicale, però insomma dai, ci sono piaciuti e ci hanno così ben impressionati, soprattutto nei testi. Detto ciò, regia, cosa abbiamo sul piatto numero 2? 1 con Stanza di sabbia. Stanza di sabbia, Paoletti adesso ce ne parlerà, vero Paoletti? È proprio così. Uno è un progetto che si ispira ad artisti come Damien Rice o Jeremy Zucker, dalla firma appunto del suo contratto e attraverso la Sony Music Italia, che praticamente segna per lui un capitolo davvero interessante dopo la pubblicazione del singolo 24 ore, visto che insomma è stato così selezionato niente proprio di meno che da Amadeus tempo addietro, per quanto riguarda, per rappresentare insomma i giovani di Sanremo. Era tra i 42 brani estratti, scelti da Amadeus per Sanremo. Che c'è da dire? Che ovviamente per questo ragazzo è e se non sbaglio italo, un po' come Mohamed, non lo so, comunque insomma. È un artista su cui ci sono tanti progetti, soprattutto adesso c'è la Virgin Universal che ha puntato molto su di lui. Quindi che dire, che mi sembrano che gli auspici buoni ci siano per questo ragazzo giovanissimo, che poi buca anche lo schermo, nel senso che piace tantissimo al pubblico femminile. È nato a Roma nel 2000, devo dire che ha ben iniziato la sua carriera. Detto ciò, velocemente, cosa abbiamo, regia? Adesso abbiamo un brano difficile. Abbiamo un cantante che si chiama R Trello. Non sarà così per sempre. Dopo ce ne parla Paoletti. Guardami negli occhi, dimmi cosa vedi. Io ci vedo nulla e basta, eppure sono rimasto me stesso. Comunque io mi sento in difetto. Troppo in fondo, poi ci vedo il vuoto mentre tengo i denti stretti sulle ginocchia sopra il suolo e penso che non sono più il vecchio me. Parlo bene degli altri ma non parlo mai di me stesso, perché non ce la faccio più a guardarmi allo specchio e sento freddo quando fuori è un inferno. Spezzato, non so fare altro, mi sento solo su un grosso palco, ma penso che sono arrivato fin qui, ma alla fine non ho avuto niente. Mi sento strano in mezzo alla gente, ormai non riesco a capire chi io sia, e mi continuano a ripetere che non sarà così per sempre. Ma ho delle opinioni diverse, voglio uscire dalla mia mente. Su dai coraggio Raul, andrà tutto bene, me lo ripeto quando il sangue è freddo nelle mie vene. Tu che mi vedi allegro ma non mi conosci bene, no, non sei un cazzo di me. Mi chiedono perché non riesco ad amare, ma io per poterlo fare so che dovrei stare in pace con me, ma non lo so fare. Sono chiuso qui ma non so manco come ho fatto a entrare, sto battendo alla mia porta e non mi fanno respirare. Se mi senti fammi uscire, lo so che te ne avevo già parlato, ma non voglio più morire. No, io vorrei fare una trasmissione e chiamare praticamente in diretta tutti questi produttori oppure discografici e chiedere come si pronunciano tutti questi nomi impossibili. Ce ne sono alcuni perché... un po' improbabili. Sì, sì, vabbè. Ce ne sono di... Veramente. Sillabiamo, come si diceva una volta, lo sillabiamo, quindi ci prendiamo, no? Sì, vabbè. R3LLO. Poi per fortuna ci sono le nostre playlist dove si può dare un'occhiata. Per me è Retrello, sarebbe così, secondo me è così. Sì. Non sarà così per me, questo è il singolo che abbiamo estratto, Roland Gelucci, si chiama così, insomma, questo ragazzo nasce nel 2005, sin da piccolo mostra interesse per la musica, finché nel 2021, all'età di 15 anni, gli viene regalata la sua prima chitarra acustica e poi da lì è tutto un crescente. Lui praticamente un crescendo, volevo dire, poi da lì inizia ad approfondire il suo interesse per gli strumenti come il pianoforte che suona la madre, poi l'ukulele, il sassofono, devo dire ce n'è per tutti, e questo è il suo singolo che è, insomma, siamo in attesa del video, però insomma questa è la sua canzone per questa primavera estate. Complimenti anche lui, a questo punto direi di voltare pagina. Corriamo, regia, corriamo, cosa c'è? Penultimo brano, DJ Thor featuring Fabu Beat, stessa Nation. Anche qui dopo un po' ci spiegherà. Della celebration, sotto lo stesso groove, sempre la stessa Nation. È l'ora della celebration, sotto lo stesso groove, sempre la stessa Nation. È l'ora della celebration, sotto lo stesso groove, sempre la stessa Nation. È l'ora della celebration, sotto lo stesso groove, sempre la stessa Nation. Emozione e la celebrazione, entro nel beat e sul segno di effrazione. Piccolo passo per l'uomo, grande passo per l'umanità. Ullala, che paura, è lo sbarco sulla luna, passeggio sulla duna, sacro come la runa, entro nella cruna, roar come puma, che aria pura, quando mi tuffo nel flow è come gomma piuma. È l'ora della celebration, sotto lo stesso groove, sempre la stessa nation. È l'ora della celebration, sotto lo stesso groove, sempre la stessa nation. Le rime che scorrono, rime che come dardi si tirano, rime su rime che sacchi di sillabe pesano e sfilano, menti che pensano, ma c'è chi si perde nel dedalo. Abracadabra, apriti sesamo, è l'incantamento. Spiego, le ali sono in volo come Pegaso. Le rime ci curano, no, non fumo più il sigaro. Le rime si legano, i mani ci pregano, è il tuo battesimo. Tu stai pronto a questo nuovo manesimo. È l'ora della celebration, sotto lo stesso groove, sempre la stessa nation. È l'ora della celebration, sotto lo stesso groove, sempre la stessa nation. A noi non importa che ti dia pre, ti vuole l'amore. Comme ta pour soi de façon classe, pour la place, ouais. Pour les tapis rouges, pour les boss qui arrivent. Tirer des gaulines, pas pour les sympathies. Vite d'or, Farobis, c'est lourd connexion. Il est l'air et temps pour la célébration. Tic-tac, raison, ça s'est fait à l'occasion. Avec les mêmes nations. Tic-tac, l'ora della celebration. Sotto lo stesso groove, sempre la stessa nation. Paoletti è rimasto ipnotizzato da questo tic-tac, eccetera, eccetera, vero Paoletti? E ho ben donde, perché nel 2023, in occasione dei suoi 35 anni di carriera artistica e dei 50 dell'hip hop, del mondo musicale, così, si torna con un album di elettronica vintage, ma non solo, che appunto si chiama Alle Origini. Stessa Nation è il primo singolo, anticipa l'album Alle Origini per questo artista che, insomma, non mi era nuovo, insomma, il timbro però il timbro vocale in realtà è perché Thor, noto anche come Torrido ai tempi dei primi rap italiani, insomma ha costruito proprio l'hip hop di quegli anni. Quindi, visto che tutto si trasforma e non si distrugge niente, è ritornato alla grande con questo lavoro. E poi ci sarebbero tante le cose da raccontare nel mondo hip hop rapper degli anni 80, ma non abbiamo tempo, questo non è appunto il momento. Momento invece di far entrare qui qualcuno. No, abbiamo no. L'ultimo brano, Paoletti. Ah, ok, velocemente. È arrivato anche un aereo, ci sarà. Sì, sì, vabbè. Partenza, arrivi e partenze, vedo qui che arriva anche Garbo, il nuovo album è uscito proprio ieri, se non sbaglio, Come pietre il suo singolo, e poi ve ne parlo da Nel vuoto. Pesa poco niente dentro le città, c'è tanta polvere che occupa la vita, che riempie i tuoi pensieri fatti di miraggi, bruciano e cenere. Guarda quanto niente avvolge anche la mente, rubiamo un'età, togliamo polvere che copre ogni idea, che soffoca la vita silenziosa, è solo un grido infinito. È ritornato grazie a un progetto insieme a Luca Urbani e Roberto Colombo. Roberto Colombo è un grande produttore, insomma ricordiamo Mattia Bazzar dell'epoca d'oro, quelli di non so, quello di Roma dove sei, eccetera eccetera, insomma viene non citi troppa roba. Comunque Garbo è un mito della canzone italiana, assolutamente è il nostro David Bowie per antonomasia. Lui è introdotto proprio insieme a Carlo Massarini, perché erano i primi video, ha introdotto i video e poi insomma tutta la musica elettronica che stiamo ascoltando oggi, tant'è vero che quelli che sono arrivati dopo gli hanno attribuito imitati, proprio un album. Ahimè, siamo alla fine, abbiamo un ospite qui in studio che ci parlerà di cosa andrà in onda tra poco. Allora un saluto a lei, ciao. Intanto, buongiorno, anzi buonasera a quest'ora a tutte e a tutti. Allora, la mia puntata inizia alle 5, c'era una volta il West, parliamo di cinema come sempre e di colonne sonore, e oggi in occasione del 25 aprile parleremo di resistenza al cinema, quindi una vita difficile di Mino Risi. Bene, ringraziamo Amalia, le diamo una buona trasmissione, un bocca al lupo. Sì, non beh, perdetevela. No, assolutamente. Allora, a proposito, 17. Certo, a proposito di resistenza, noi continuiamo la resistenza in via del Pratello, poi il giorno 25. 25 ci saremo con una piccola postazione. Che dire che qui, noi chiudiamo, abbiamo già sforato regia e tutti, quindi baci e abbracci. Marzia da Gorizia e Andrea Ascolese. Oh, un saluto anche lui ritorna alla musica, quindi ce ne sarà. Intervisteremo assolutamente. Come presto intervisteremo il figlio, scusate. Ah, il figlio di Pierangelo Alberto, Alberto Bertoli. Bene, bene, mi compiaccio, la regia vedo che sta lavorando. Adesso sigla, buon fine settimana. E dopo il cinema. Dal Bolognese Volante. Bye bye da Franco Paoletti, a fra 7 giorni. Ciao e ciao. Dopo il cinema. Ciao ciao. Avete ascoltato il Sip Hop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko.